Inizia un nuovo weekend, in coda ad aspettare, non al casello per andare al mare, ma per trovare un posto per parcheggiare, per poi tuffarsi nel centro commerciale. Luci, colori, confusione, puoi trovare quello che cerchi, conoscere persone. Dopo una settimana dura a lavorare, che sicuramente ti potrai rilassare. Guarda quante belle offerte convenienti, puoi fare regali ad amici e parenti. Solo qui puoi essere sicuro, qui ci sono i colori, non è mai scuro. A tutte vacanze in montagna o al mare, io passo il weekend al centro commerciale. Non ho più bisogno di uscire, andare a ballare, trovo quello che voglio qui nel centro commerciale. A tutte vacanze in montagna o al mare, io passo il weekend al centro commerciale. Non ho più bisogno di uscire, andare a ballare, trovo tutto quel che voglio qui nel centro commerciale. I tuoi nuovi pusher siamo noi, sappiamo come farti spendere i soldi tuoi. Qui ci sono i sogni nel cassetto, si possono realizzare, va dove ti porta il portafoglio, li puoi comprare. Qui c'è sempre festa, sempre allegria, come per magia dimentichi tristezza e malinconia. Noi ti vogliamo bene, se paghi non hai bisogno di niente. Ricordalo se ti sentirai solo fra la gente. Non sogno più di andare in vacanza molto nel mare, voglio passare il weekend al centro commerciale. Non mi interessa più il video poker, non voglio più andare al mio bibliotecario, come sanno il weekend al centro commerciale. Raccogli i punti per regali di pagamento che non userai mai. Se c'è un'offerta compra tutto, non si sa mai. Quando esci sei felice, ma a casa inizi già a pensare. Non vedi l'ora di poter tornare. Quanti commessi esperti ti sanno consigliare qual è il prodotto per te con garanzia ad ampliare. La domenica fa la spesa, è una figata, tanto chi lavora non ha una vita privata. Che vacanze in montagna al mare, io voglio passare il weekend al centro commerciale. Non ho più bisogno di bere per dimenticare, a poco di specie al centro commerciale. Altro che vacanze in montagna al mare, io voglio passare il weekend al centro commerciale. Non ho più bisogno di bere per dimenticare, a poco di specie al centro commerciale. È sempre circondato da offerte speciali, dagli hi-fi agli alimentari. Non mi interessa più il bar, il cinema, il centro sociale. Voglio passare tempo libero, centro commerciale. Vorrei viverci dentro e non vorrei più uscire. Solo così mi potrei rilassare e divertire. Qui nessuno mi potrà mai fare del male. Troverò sempre una persona con cui parlare. Guarda bene, guarda quante belle offerte convenienti per far regali ad amici e parenti. Solo qui puoi essere sicuro, c'è sempre luce, non è mai scuro. Altro che vacanze in montagna al mare, io passo il weekend al centro commerciale. Non ho più bisogno di andare a ballare, voglio passare il tempo libero al centro commerciale. Altro che vacanze in montagna al mare, io passo il weekend al centro commerciale. Non ho più bisogno di uscire per andare a ballare, voglio stare qui al centro commerciale. Centro commerciale. Centro commerciale.